Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Ari, c'è il posto. È il posto. Attacchino. T'hai da presentare al centro affissioni. Gli dai sta carta e te porti il libretto. Mannaggia la miseria, oh. Ari, ricordati di portare la bicicletta. La bicicletta? Ce l'ho e non ce l'ho. Subito no. La posso avere fra un po' di giorni. No, ce l'ho subito, se no non te pieno. E non è uguale. Sti primi giorni faccio il servizio a pieno. Parliamo se chiaro, Ari, ce l'hai o non ce l'hai sta bicicletta? Se non ce l'hai bisogna dare il posto a un altro. Ce l'ho io la bicicletta. E che ce l'hai solo tu la bicicletta? Ce l'ho pure io. Ma tu sei muratore, sei dell'altra categoria. E cambiami categoria. Ma non se può. Allora, Ricci, sta bicicletta c'è sta o non c'è sta? C'è sta. Stamattina mi presento. Oh, non fammi accoglionasse. Se non ti presenti con la bicicletta non c'è niente da fare. E che sto aspettando altri due anni? Mi presento con la bicicletta, non c'è da fare. Mi presento. Eccomi. C'è, Cataldi. Eccomi. Ma la vale per due giornate al cantiere del Tufello, si te va. Una delle storie più strappacuore che segnarono la difficile e dolorosa uscita del nostro paese dal conflitto bellico. Ladri di biciclette, anno 1948, film di Vittorio De Sica. Antonio Ricci, questo poveraccio, aveva una bicicletta, la impegnò al Monte di Pietà e guarda caso gli arrivò pronto un lavoro da attacchino. Avrebbe dato pane al suo bambino e alla sua moglie, ma non aveva la bicicletta perché l'aveva portata al Monte di Pietà per dare pane al bambino e alla moglie. Quindi come fa nel momento in cui gli viene dato un lavoro da attacchino? Potrà fare l'attacchino. Va a rubare una bicicletta. Dopo averla cercata lungamente, va a rubare una bicicletta. E da lì si dimostra che per fame si fa di tutto in quel momento. E da ladri di biciclette, che segna uno dei punti più dolorosi, più difficili del nostro paese, in cui la gente andava tutta in bicicletta, che avere una bicicletta significava poter svoltare, avere un lavoro, nella prima ricerca della bicicletta rubata del povero attacchino si mobilita tutta Roma, si mobilitano i tranvieri, i netturbini, gli amici del partito, perché c'era il partito allora naturalmente, che aiutava a cercare questa bicicletta, va addirittura da una chiromante che gli dice quella sibillina frase: o la trovi subito o non la trovi più. E già allora nell'Italia del 48 c'era la fila delle signore della chiromante che andavano a chiedere cosa sarebbe successo nel loro incerto destino. Beh, questa storia sembra così lontana dall'attualità che per anni abbiamo visto come l'esorcismo al nostro benessere, sembrava quasi l'oltraggio alla nostra memoria, improvvisamente diventata attualissima. Sì, perché oggi uno dei problemi che più ci assillano è quello dei ladri di biciclette. Sono tornati i ladri di biciclette, evidentemente siamo in un momento di congiuntura molto simile al 48. Le cifre parlano chiaro, oggi parleremo di questo. In Italia vengono rubate 320.000 biciclette all'anno, una bicicletta ogni 90 secondi circa. Ma dove vanno a finire tutte queste biciclette? La gente che ruba le biciclette le ruberà non per andare a fare gli attacchini, per trovare un lavoro, per farci qualcosa che a noi sfugge, altrimenti le nostre città sarebbero piene di biciclette, esattamente come era quella città nel film di Vittorio De Sica, in cui tutti la mattina uscivano grandi frotte di persone in bicicletta, non si vedeva un'automobile. Ma oggi che rubate tante biciclette, poi dove le andate a mettere? Le vendono, le nascondono, le smontano, le squagliano, ci fanno qualcos'altro, le esportano in paesi dove c'è un grande bisogno di biciclette, o tengono dei grandi depositi nascosti di biciclette in attesa che la crisi energetica ci appiedi tutti e quindi i ladri di biciclette diventeranno i veri padroni dell'economia? Questo ci domandiamo oggi. 800 24 00 24. Stazioni di servizio Costantin. Se ti fermi, ti conviene. Vi presenta Melog, cronache meridiane. Proteggere la bici dal furto, mito e realtà. Il fenomeno dei furti di bici oggi. Perché i furti di bici stanno aumentando esponenzialmente? Aumenta il numero di individui disposti a rubare una bici per 30-50 euro, effetto anche della crisi economica. Il furto di una bici, classificato come reato minore, non ha normalmente conseguenze penali. Per proteggersi efficacemente basta comprare un buon antifurto e legare sempre il telaio della bici ad un supporto fisso.

che attingono al mercato nero delle biciclette, le grandi occasioni delle biciclette. Roma è piena di mercati anche storici in cui si trovano biciclette di tutti i tipi. In effetti a volte si vedono biciclette nuove di zecca e non si capisce perché le vendano usate. Ci dice il commerciante di biciclette, dice, il mercato è quanto mai florido. Massimiliano, sentiamo Massimiliano se ci aiuta a trovare un'altra traccia per individuare il mercato delle bici rubate. Sì, buongiorno, io chiamo da Padova e come ben sa è una cittadina universitaria e abbiamo 60.000 insomma, studenti universitari. Da noi il problema delle biciclette è notorio, cioè ci sono ragazzi, studenti a cui è stata rubata 5-6 volte la bicicletta. Però vi è anche diciamo, un mercato a cielo aperto, se vuole dico anche il luogo davanti ai giardini dell'arena, in cui ci sono insomma questi nordafricani che palesemente hanno delle bici rubate e magari le spruzzano qualche colore per cambiarle un attimo, ma che propongono insomma la vendita delle biciclette. Come dice la canzone del rapper Bello Figo, che ha avuto notorietà ultimamente, Rubiamo le biciclette, una canzone provocatoria. Non seguo molto questo rapper. Comunque diciamo che sì, ci sono cioè questo luogo in cui è proprio un mercato a cielo aperto. A me mi è capitato più volte, ti passano davanti, le provano, aggiustano un attimo il cambio e poi ovviamente lo studente fuorisede che non ha le capacità per comprare una bicicletta da 200 da 300 euro prende una da 30 euro, quindi è un furto continuo, no? La si compra rubata, poi gliela rubano, poi la si ricompra rubata, perché ovviamente uno non può comprarsi una bici nuova per 5-6 volte. Beh, un'economia poi, a ciclo continuo, è un riciclo continuo. Esatto, un ciclo continuo, poi però... È il riciclo del biciclo, praticamente. Sì, ovviamente siccome non c'è catena che tenga, l'università insomma ha provveduto alla marchiatura delle biciclette, cioè chi vuole uno o due giorni all'anno si marchia la bicicletta, così è un segno distintivo e almeno si va a recuperare, perché abbiamo appunto appurato che le catene possono essere quanto grosse si voglia, ma insomma non tengono. Sì, poi a quel punto costa più la catena della bicicletta, se non va a spendere. Sì, prezzi assurdi, anche quello è un aspetto importante. Comunque qui a Padova, tra 60.000 universitari, il mercato delle bici rubate è molto florido, direi, è proprio a cielo aperto, zona Giardini dell'Arena, si va lì e si provano, si aggiustano, si fa tutto, insomma. Beh, questo è un dato importante, mi piacerebbe che qualche altro ascoltatore ci desse indicazioni da tutta Italia su questi mercatini fiorenti a cielo aperto, che ormai non si può più nemmeno parlare di furto e ricettazione, quasi una forma di leasing. Uno prende la bicicletta, se la usa un po' e poi gliela rifregano da andarsene a ricomprare un'altra uguale o la stessa che gli hanno rubato. Interessante, ci sentiamo tra un istante. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading. Vi presenta Verona-Torino, trasferta d'affari. Io, un collega e il sistema Digital Radio. Ti va di ascoltare la radio? Certo, ma te la faccio provare in digital. Ne ho sentito parlare. Il suono perfetto che non ti lascia mai nemmeno in autostrada. E in più hai tanti contenuti speciali. Basta un autoradio digitale. DAB Plus. Chiedila al tuo concessionario. Se ami la radio, muoviti a provarla in digital, in auto e a casa. Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus. Anche Radio 24 è in digital radio. Melog, cronache meridiane. 800240024, ci stanno arrivando segnalazioni da tutta Italia nei luoghi in cui è attivo il riciclo del biciclo. Lo scalo di Porta Genova a Milano, dove si possono comprare biciclette rubate. A Pisa, davanti alla mensa universitaria in piazza dei Cavalieri, stanno dandomi indicazioni dove palesemente ci sono luoghi in cui si vendono e si comprano anche biciclette rubate da poco prezzo, economiche, rubate e rirubate ormai più volte, ma anche biciclette di pregio. Francesco, buongiorno. Sì, salve, io chiamo dalla provincia di Vicenza per segnalare un fatto curioso che almeno nella mia piccola città, nella mia provincia si nota. E io vedo continuamente, soprattutto alle ore della notte, quando diciamo il sole cala, dei furgoni di varie dimensioni, solitamente da 7-9 posti, dove all'interno, invece che esserci dei sedili con delle persone a bordo, ci sono caricate delle biciclette.

che ha reso questa zona piena di rastrelliere per biciclette senza neanche una bicicletta attaccata. Cioè, mi faccia capire, il tossico si ruba una bicicletta, la vende subito e con i soldi compra la droga. Il tossico arriva alla stazione di Prato perché sa che qui la droga è conveniente. Sì. Arriva senza un soldo, sì. Gira la zona intorno alla stazione, che è la zona intorno all'università, oltretutto. Si frega una bicicletta. La prima bicicletta che trova la ruba, la rivende seduta stante, viene compensato per il suo nome. Ma chi la rivende? A chi la rivende? Chi sono i ricettatori? La rivende ai noti soggetti che hanno due o tre depositi in città. Ah, ecco, c'è una ricettazione, diciamo, diffusa, perché certamente non è facile se no vendere una bicicletta appena rubata subito. No, ma per evitare di bruciarsi i depositi, questi soggetti, cioè chiunque voglia comprare una bicicletta, sa che basta andare nella zona dell'università, chiedere di voler acquistare una bicicletta e c'è qualcuno che porta l'acquirente al deposito e gli fa scegliere fra l'ampia gamma. Allora, lo sporco lavoro lo fa il drogato, che sa benissimo che troverà subito un ricettatore che gliela compra, quindi praticamente è un finanziare il mercato della droga attraverso il furto della bicicletta. Sì, se ne avvantaggiano solo gli studenti, ma non credo che possa essere un vantaggio particolarmente piacevole anche per loro, visto che hanno lo spaccio sotto il naso. Poi nel caso che gli studenti si facciano pure, ricomprano la bicicletta, poi devono rivendere per rifarsi la roba. È un circolo. Ecco, sì, si diventa un circolo vizioso. È un circolo vizioso. Di cui sono stato vittima anch'io. Marcello. Ovviamente come derubato. In bocca al lupo per ritrovare la bici. Marcello. Sì, buongiorno. L'ascolto. Senta, io ho abitato 7 anni a Ginevra e avevo un Raleigh e mia moglie lo stesso una bicicletta. Per ogni anno bisognava comprare una specie di targa che costava 5 euro perché ti permetteva anche di assicurarti in caso che te in bicicletta investissi qualcuno. Le do un esempio, mia moglie aveva parcheggiato ai limiti del marciapiede la sua bicicletta anziché nella rastrelliera davanti al supermercato e il giorno dopo si è vista arrivare i poliziotti a casa perché quella bicicletta parcheggiata fuori del posto aveva graffiato uno sportello. Marcello, lei mi sta facendo l'esempio della Svizzera, qua stiamo parlando di un circolo vizioso per cui si ruba la bicicletta, si prende la droga e ti ricompra la bicicletta al mercante di biciclette, lo studente ricompra la bicicletta, poi se vuole farsi rivende la bicicletta, la dà allo spacciatore. Cioè, lei mi sta parlando della Svizzera. Mauro Di Gregorio, buongiorno. Buongiorno a voi. Lei è quello che ha creato la mappa della tua città? Sì, il primo osservatorio di contrasto al furto di biciclette. Lei è un vigile, cos'è? Un vigile urbano? Anche, però ovviamente la comunicazione in questo momento è come presidente dell'associazione Mappa la tua città. Va bene, però diciamo illuminato da entrambe le sue professioni. Un'esperienza diretta sul campo. E cosa è venuto fuori la vostra mappa? Allora, dalla mappa che abbiamo ripreso con un nuovo format da quest'anno, perché stiamo collaborando con il comune di Vercelli e a breve posso dire che inizierà la collaborazione anche col comune di Alessandria, diamo la possibilità ai cittadini di segnalare previa registrazione il furto di biciclette. Questi dati poi noi li diamo ai comandi di polizia locale, dove attivano delle politiche di controllo del territorio, e allo stesso tempo nel comune di Vercelli e prossimamente anche nel comune di Alessandria ci sarà la possibilità al cittadino di fare la denuncia online tramite questa segnalazione dove si raccolgono tanti dati, quindi alla fine verrà chiesto solo in queste due realtà al momento, perché stiamo avendo degli accordi con il comando di polizia locale per aumentare il numero delle denunce. Allora scusi, come diceva Giulietta Pagliaccio della FIAB, alla base c'è tutto il bisogno di denunciare comunque il furto di bicicletta, sempre. Diciamo che è anche a livello così, io lo chiamo di senso civico, nel senso che siamo tutti facenti parte di questo sistema e non bisogna mai smettere di credere nelle istituzioni, perché possono solo migliorare. E quindi raccogliere la denuncia permette a un sistema giuridico, come potrebbe essere il controllo da parte della polizia locale piuttosto che della polizia di Stato, dei carabinieri, uno strumento giuridico per poter intraprendere anche a livello di indagini. Se il fenomeno viene segnalato è ovvio che esiste. Beh, mi sembra di capire, in conclusione, fra tutti i nostri ospiti e i nostri interlocutori, denunciare online sarà più semplice senz'altro che andare a fare la fila davanti al posto di polizia, ma in qualche maniera